Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Salve, un caro saluto a tutte le persone in ascolto. Questa è Restiamo Animali, la trasmissione animalista, antispecista e vegan che racconta l'attualità, il cambiamento degli stili di vita, l'evoluzione del pensiero mettendo al centro dell'attenzione gli animali non umani. È la puntata numero 730 e parleremo ancora di orsi, ma anche di mense scolastiche, di carne coltivata, di spericolate analisi tecnico-ascientifiche, di cinema. La colonna sonora della puntata è curata da Gianluca Masala. La ricetta della settimana, come al solito, è di Gabriele Palloni. Tornare a parlare degli orsi del Trentino, animali selvatici entrati nel mirino della leadership politica locale, guidata dal presidente della provincia autonoma Maurizio Fugatti, che della guerra agli orsi ha fatto una ragione di vita politica. La giunta provinciale ha approvato un provvedimento che prevede l'uccisione di 8 orsi ogni anno, una misura presa ufficialmente per contenere il numero di questi animali e per salvaguardare, si dice, la sicurezza della popolazione. In realtà, più probabilmente, questa misura va inserita all'interno di un più ampio programma, di uno stile di vita e di governo, che i sociologi da tempo chiamano governare con la paura. Si tratta cioè di suscitare un allarme, magari inesistente o gonfiato d'arte, e di proporre poi una soluzione con la formula del pugno duro, della repressione, nello stile dell'uomo forte. È un modello in atto in Italia ormai da decenni, con la supposta emergenza immigrazione, e con la cosiddetta emergenza sicurezza. In realtà entrambe inesistenti, una volta che siano studiate nel concreto, dati alla mano. In Trentino viene riproposta questa logica, con un certo successo, dall'esponente leghista con riguardo agli orsi. La discussione sul massacro istituzionale degli orsi è ovviamente ancora aperta, con la forte opposizione, perlomeno, del movimento animalista. C'è da registrare allora l'intervento di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, che concentra l'attenzione su alcuni dettagli della misura presa dalla giunta trentina, che è in attesa di essere discussa dal Consiglio provinciale. Cuccioli inermi e innocenti, magari con pochi mesi o addirittura settimane di vita, dice EMPA, saranno stanati nei loro rifugi, strappati alle cure materne o ai giochi d'infanzia e saranno trucidati barbaramente e senza pietà da uomini armati. È quanto prevede, fra gli altri punti, il disegno di legge ursicida, dice EMPA, approvato dalla Giunta e cui aspetti fondamentali sono stati resi noti dall'assessore Falloni. L'assessore in effetti ha parlato di un massimo di 8 orsi potenzialmente da uccidere ogni anno, specificando che dovranno essere non più di 2 femmine e non più di 2 maschi. L'aritmetica fa sì che ci sia spazio, evidentemente, per l'eliminazione fisica di 4 cuccioli. Davvero Giorgia Meloni e Matteo Salvini, si chiede EMPA, intendono mettere la loro firma su questa strage degli innocenti? Davvero intendono avallare questo massacro, che peraltro colpisce una specie particolarmente protetta da norme italiane e europee, mettendone nuovamente in pericolo la conservazione? Alla Premier e al Vice Premier, conclude EMPA, chiediamo un gesto di coscienza e di responsabilità, impugnando il disegno di legge in caso di approvazione da parte del Consiglio provinciale. In verità, sia l'ideologia, sia la storia politica e i legami di interesse dell'estrema destra italiana, Fratelli d'Italia e Lega, fanno pensare che l'avallo di Meloni e Salvini ci sarà. Per cui il contrasto alla norma ursicida del Trentino dovrà necessariamente seguire altre strade. I drive my Range Rover. swimming, I'm moving through water and I'm singing. I sing for my daughter and I grew like a lamb to the slaughter and I walk through. Un altro tema di attualità politica è legato alla carne coltivata in laboratorio, ottenuta cioè dalla coltura cellulare, senza allevamento né uccisione di animali. Una tecnica che sta prendendo piede nel mondo, ma che è contrastata, per ovvie ragioni, dall'industria zootecnica. Il dibattito è ora aperto in Europa, con l'Italia, unico paese al momento a vietarne sia la produzione sia il commercio, fra i maggiori protagonisti. In una nota congiunta, proprio Italia, con Francia e Austria, e altri 9 paesi come sottoscrittori, si sono rivolti ai vertici dell'Unione per sostenere che la carne coltivata è una minaccia ai metodi di produzione alimentare genuina che sono al centro del modello agricolo europeo. In gioco, evidentemente, ci sono enormi interessi economici, perché si teme che la diffusione della carne coltivata intacchi un business molto florido, legato all'allevamento e al macello degli animali. Gli oppositori al momento sembrano voler percorrere anche la strada della delegittimazione scientifica, diciamo così, della tecnologia usata dalle aziende che hanno già cominciato a produrre carne coltivata. Si sostiene quindi che la carne coltivata non sarebbe né sicura dal punto di vista alimentare né genuina, intendendo con ciò che genuina è la carne ottenuta allevando animali in stato di schiavitù, in enormi strutture concentrazionarie, negando loro le normali attività vitali. Muoversi, riprodursi con atto sessuale, pascolare, con enormi sofferenze e uno smodato uso di prodotti farmaceutici. E si sostiene anche, sfidando in questo caso montagne di studi e di conoscenze accumulate nei decenni, che non c'è un nesso fra la zootecnia e la produzione di emissioni inquinanti. È accaduto in un recente convegno a Torino, organizzato da Coldiretti, durante il quale, leggiamo dal quotidiano Il Manifesto, si è detto fra l'altro che gli allevamenti e l'agricoltura incidono solo per il 4-6% sull'inquinamento atmosferico da polveri sottili e anzi servono a migliorare la sostenibilità ambientale. Così ha riferito il direttore dell'ARPA Piemonte. In verità, dice il quotidiano, un report di Greenpeace dimostra che gli allevamenti intensivi sono responsabili per il 17% delle polveri sottili e per il 14,5% delle emissioni globali di CO2. Di parere contrario rispetto a questi dati, leggiamo ancora dal quotidiano, è Davide Biagini, ricercatore del Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell'Università di Torino. Gli allevamenti, ha detto, non sono responsabili delle emissioni di CO2, anzi contribuiscono a rimuoverla dall'atmosfera e stoccarla. E poi ha anche detto, citando un singolo studio statunitense, ridurre gli animali non servirà a nulla. Un'affermazione, si legge ancora sul Manifesto, decisamente forte e spericolata. Se consideriamo che l'IPCC, ossia la rete di scienziati di tutto il mondo che fa capo all'ONU e che studia i cambiamenti climatici da decenni, nel suo 6° rapporto analizza oltre 3.000 studi scientifici pubblicati in tutto il mondo, non uno quindi, e raccomanda invece la riduzione degli animali allevati, eliminando i sussidi agli allevamenti, e raccomanda ancora una dieta per lo più vegetale. Come possiamo risolvere la crisi climatica e l'inquinamento dell'aria? Si chiede l'autore dell'articolo, Fabio Rotondo, e noi con lui. Se agli agricoltori e agli allevatori vengono fornite queste informazioni, se vengono istigati con slogan del tipo «ci danno la colpa» o «ci vogliono proibire di mangiare carne», dobbiamo difenderci. Fatto sta, aggiungiamo noi, che nel mondo agricolo la rivolta contro la minaccia della carne coltivata è in corso, nonostante il suo successo commerciale e quindi la sua capacità di insidiare davvero la filiera dello sfruttamento animale, sia ancora tutto da verificare. A porcelana e o alabastro na pele que eu vou beijar. O escuro atrás do astro na boca que me afogar. Os veios que há no mármore nos seios de Conceição. E desafeto e mais paixão e por que sim, por que não. Porque você o que me prende vive livre como tudo que há no espelho. Existe mas não tive o bambuau de ouro no dorso do tigre. E o farol de Alexandria varando a solidão. Tu me incendeia e o ciúme entra na veia. A paixão ricocheteia, sobe até o coração e é bom. Pouco existente feito as pernas da sereia. O cavalo de São Jorge pisando a lua cheia. Igual a chuva que é no fundo da baleia. É tão pouco formoseia. O aguarão do mal amor vareia. O primeiro vira areia. O segundo sacaneia. Mas o próximo é ilusão que... quando choro do olho sai meteoro e fogo de cada poro um vulcão. É dor capaz de tombar a Via Láctea no mar, mas cabe dentro do olho de um grilo no manguezal. Quando o rio faz frio de calafrio, as moças têm arrupio e terção. É alegria capaz de acovardar lobisomem, e quando mais espera dela, é aí que ela sonha. Eu jogo truco, dou troco, sou truculento e turrão. Bato muito firme, danço o jogo candongueiro. Eu mato a cobra disposto, exibo o pau pra nós dois. Tu se afeiçoa, faz carinho e me leia. Eu gosto mais, me aperreia, com depender de mulher. Cavalo de São Jorge, pisando a lua cheia, igual a chuva que há no fundo da baleia. É tão pouco formoseia, o aguarão do mal a movareia. O primeiro vira areia, o segundo sacaneia, mas o próximo é ilusão. Que bom! Eu quando choro do olho, sai meteoro e fogo de cada poro um vulcão. É dor capaz de tombar a Via Láctea no mar, mas cabe dentro do olho de um grilo no manguezal. Quando o rio faz frio de calafrio, as moças têm arrupio e terção. É alegria capaz de acovardar lobisomem, e quando mais espera dela, é aí que ela some. Eu jogo truco, dou troco, sou truculento e turrão. Bato muito firme, danço o jogo candongueiro. Eu mato a cobra disposto, exibo o pau pra nós dois. Tu se afeiçoa, faz carinho e me leia. Eu gosto mais, me aperreia, o depender de mulher. É sempre nítido, obscuro, que se quer. Quante volte chi sia passato a un'alimentazione vegetariano-vegana si è sentito chiedere: ma allora cosa mangi? Come se l'abbandono di alimenti di origine animale comportasse chissà quale difficoltà e sacrifici. Una domanda ingenua, dovuta a un condizionamento cui siamo tutti sottoposti, quello dell'abitudine. Una domanda comunque che contiene anche una verità. Per quanto la cucina su base vegetale sia ricca, fantasiosa, gustosa, quanto e forse più di quella su base anche animale, centinaia di volumi di cucina sono lì a dimostrarlo. Il grumo di verità è legato a quei luoghi pubblici, bar, ristoranti, mense pubbliche e private, che il condizionamento della tradizione e dell'abitudine lo vivono come una gabbia, o come una cornice indiscutibile, come se in Italia non ci fossero qualche milione di persone che hanno smesso di nutrirsi di altri animali. Ecco allora che i menù rischiano davvero di ridursi a schiacciatine vuote, pasta al pomodoro, insalata e verdure grigliate, o anche peggio. Essere Animali, un'organizzazione animalista molto giovane ma molto battagliera, con l'aiuto del gruppo di ricerca Demetra, ha realizzato un report sulle mense universitarie, scoprendo che una su due non contempla secondi piatti a base vegetale e che soltanto il 20% delle strutture li propone una o due volte a settimana. Va un po' meglio con i primi piatti, complice forse la popolarità della pomarola, col 60% delle mense che offre sempre o quasi almeno un primo piatto vegan, mentre solo il 6% non ne mette a disposizione nemmeno uno alla settimana. Il report Mense per il Clima, ranking della ristorazione universitaria, fa parte del progetto di Essere Animali Meno per Più, concepito per aiutare aziende e università nel percorso verso una pausa pranzo di qualità, nutriente e sostenibile. Nel 2022 Essere Animali ha lanciato una specifica campagna Mense per il Clima, nata per lanciare un appello agli atenei e agli enti per il diritto allo studio affinché adeguino i menù delle mense universitarie. Su un totale di 50 menù analizzati nel report, solo 12 mense rientrano a pieno titolo nelle categorie considerate più virtuose da Essere Animali. Fra le mense più all'avanguardia in Italia, una su due si trova in Toscana. La classifica vede un podio interamente toscano, con Pisa che conta ben due mense nei primi tre posti, il campus Praticelli e le Piagge, seguita da Siena, con la mensa di Sant'Agata. Vengono poi Roma, con l'Università Campus Biomedico, il polo di Sesto Fiorentino dell'Università di Firenze, e a seguire ancora le mense universitarie di Cagliari, di Bolzano, ancora il polo San Miniato di Siena, Bologna via Ernerio, Firenze il polo Calamandrei Caponnetto, Trieste, San Giovanni Portovecchio, e infine Cosenza. Secondo Valentina Taglietti, Food Policy Specialist di Essere Animali, con un bacino di utenza di 2 milioni di persone fra studenti, docenti, personale di ricerca, tecnico e amministrativo, le mense universitarie possono davvero fare la differenza per ridurre l'impatto che il cibo che consumiamo ogni giorno ha sull'ambiente. Questo report dimostra, dice ancora Taglietti, che una transizione della ristorazione collettiva universitaria In chiave vegetale non solo è conveniente, ma è anche possibile, come sta accadendo in tutta Europa e ora in diverse realtà pioniere in Italia. Il nostro tosco vegan chef Gabriele Pallone ha preso il contenuto del rapporto e, notati i ritardi di tante strutture universitarie, ha pensato bene di suggerire una ricetta per un secondo a base vegetale e a misura di mensa pubblica. Ricordiamo che Gabriele Pallone è autore di vari libri di cucina. L'ultimo si intitola Se vuoi essere sano, cucina vegano ed è edito da Newton Compton. E forse gli enti per il diritto allo studio e gli amministratori delle mense universitarie potrebbero attingere buone idee anche da questi testi. Sentiamo la ricetta di oggi. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Anni fa partecipai ad un convegno sulle mense scolastiche. Ricordo che in molti degli interventi si sottolineava come in questa stagione sarebbe sano proporre il cavolfiore, ma quanta difficoltà veniva riscontrata nel farlo scegliere ai consumatori. Oggi, come allora, suggerisco un modo alternativo per renderlo più attraente. La pizza di cavolfiore. Gli ingredienti per 4 persone sono 600 g di cavolfiore, 50 g di farina di ceci, 200 g di passata di pomodoro, 100 g di mozzarella vegetale, origano, capperi, olio extravergine di oliva e sale. Lavate e asciugate bene il cavolfiore, quindi da crudo tritatelo finemente con un mixer. Versate il tutto in una ciotola e unite la farina di ceci, del sale e un cucchiaio di olio extravergine e impastate bene il tutto. Versate il composto su una placca da forno rivestita da carta forno e spennellata di olio. Stendete bene livellando tutto l'impasto, aiutandovi con le mani e con il dorso di un cucchiaio leggermente inumidito. Potete realizzare anche una base rotonda per ogni commensale. Condite con un altro po' di olio extravergine in superficie e cuocete in forno ventilato a 180 gradi per 15 minuti. Togliete dal forno e condite con la passata di pomodoro, origano, la mozzarella vegetale e qualche cappero. Infornate nuovamente per 5 minuti, togliete dal forno, un bel giro di olio crudo e servite ben caldo. Da qualche tempo Emilio Maggio, appassionato ed esperto di cinema, nonché amico dell'antispecismo, compone lemma dopo lemma una mappa storica ragionata della presenza degli animali sui set cinematografici. Sentiamo il suo nuovo intervento. Siamo arrivati alla lettera L e in questa puntata di questo abecedario sugli animali da set la parola è latenza. Il concetto di latenza, sorvolando la specificità che il termine assume in medicina o nella virtualità comunicativa della rete come connessione, rimanda per lo più a una sorta di mancanza, un qualcosa che pur non evidente, nascosto, non perfettamente visibile, esiste soprattutto quando ci impegniamo a parlare di animali. Quando poi gli animali sono elementi funzionali al gioco delle rappresentazioni umane, questa latenza si materializza, tanto da condizionare non solo il modo immaginarli e quindi di parlarne, ma anche la nostra stessa predisposizione al pensiero. Se concentriamo la nostra analisi ai modi della rappresentazione audiovisiva, ci accorgiamo che questa latenza, sublimata semioticamente e materialmente nelle forme dell'espressività umana, come simboli, feticci, desideri o aspirazioni, assume valore addirittura paradigmatico del nostro stare al mondo, connotandosi a seconda degli approcci o come referente assente, per esempio come nell'interpretazione che ci fornisce Carol Adams, cioè l'animale pur ossessivamente presente in ogni branca delle rappresentazioni umane e assente materialmente come corpo vivente, oppure nella visione, per esempio, del filosofo francese Jean-Christophe Bailly come versante animale, cioè un territorio insieme domestico-selvatico in cui la relazione umano-animale si completa reciprocamente all'infuori di ogni recinto concettuale e fisico, che sia un'abitazione, un bosco, oppure appunto un quadro o un film. Nel cinema contemporaneo, per esempio, questa latenza assume una dimensione talmente egemone, pervasiva e assoluta da condizionare le stesse sorti della cosiddetta settima arte. È difficilissimo oggi in qualunque film, di qualunque genere esso sia e qualunque siano le idee che vuole comunicare, non avere almeno un nesso o un riferimento che rimandi in qualche modo all'animalità. Anche quando gli animali non rientrano nel campo dell'inquadratura, ovvero quando non sono inquadrati o sono del tutto assenti dagli snodi narrativi e drammaturgici dei film, si percepisce questa contiguità di relazioni mancate o presenti tra domesticazione, in questo caso del set, e arte della sopravvivenza negli spazi di selvaticità che noi forniamo, diamo in concessione agli altri animali, tenendo presente, e forse questo, che il cinema come macchina in grado di catturare proprio questi spazi di libertà ci fornisce, che i processi di domesticazione e liberazione sono sempre reciproci e in continua coevoluzione. Prendiamo ora in considerazione qualche titolo. In Il male non esiste, per esempio, la cerva con il piccolo al seguito, inquadrata per pochi secondi, è solamente una premonizione, probabilmente la vediamo solo noi spettatori, pur essendo l'elemento dirimente per comprendere l'intero film. In Anatomia di una caduta, forse il migliore film dell'anno appena trascorso, si ha come la sensazione che il punto di vista della regista Justine Triet coincida con quello del cane che condivide le drammatiche vicissitudini della agiata famiglia ritratta. Ancora in Il mondo dietro di te, in programmazione su Netflix, è il branco di cervi che appare e scompare sul limitare del bosco intorno alla casa delle due, forse uniche famiglie sopravvissute a una terribile catombe, probabilmente prodotta da una tragedia ecologico-bellica, che designano questo poroso confine tra bestialità vilipesa e civiltà conquistatrice. Citando ancora Bailly, potremmo dire che il campo della foresta inquadrata da cui i cervi escono e a cui sempre sembrano ritornare, rimanda alla potenza del fuoricampo animale, a quella selva oscura che ancora ci pervade e ci attira. Oppure Fishbone, del filmmaker bulgaro Dragomir Sholev, visibile su Arte TV, in cui il vero protagonista è un delfino spiaggiato su cui ruota tutta la grottesca vicenda che coinvolge un campeggio sulle spiagge del Mar Nero insieme ai suoi avventori, inquadrato solo attraverso una serie di accorti, dettagli visibilmente posticci. Per non parlare del cieco che non voleva vedere Titanic, del regista finlandese di culto assoluto Teemu Nikku, visto in streaming su Prime Video, in cui a salvare il protagonista che ha perduto la vista per una grave malattia degenerativa da una pericolosa situazione in cui appunto si è cacciato, è un cane che noi spettatori percepiamo a malapena, in quanto l'intero film è girato dal punto di vista, scusate il gioco di parole, di un cieco. Ma l'animale potrebbe anche essere un semplice rimando a quella intimità perduta, per usare le parole di Bataille, che l'animalità continua a sollecitare quando ci ostiniamo, per esempio, a produrre arte, come fa il filmmaker filosofo francese Jean-Daniel Paulet nel suo concettuale Méditerranée, film di puro montaggio costituito interamente sull'analogia tra immagini di repertorio e i suoi home movies familiari. Insomma, è proprio il cinema in sé l'animale che dunque siamo, l'occhio che uccide o ci preserva a seconda dei casi, come per esempio in Il Buco, lo splendido ultimo film di Michelangelo Frammartino, in cui è una mucca ripresa dal basso di una fenditura di una grotta in cui si avventura una squadra di speleologi a fornirci il senso di questa soglia tra il vedere l'animale e l'essere visti da un animale, un'esperienza che ognuno di noi potrebbe aver fatto forse solo grazie al cinema. Per citare Rilke, con tutti gli occhi vede la creatura l'aperto. Questa settimana è tutto, vi saluta la redazione di Restiamo Animali, composta da Camilla Lattanzi, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Gianluca Masala, Gianni Ferrarotti, Zenone Sovilla, Valentina Baronti e chi vi parla, Lorenzo Guadagnucci. L'appuntamento con Restiamo Animali è fra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.